Incontri di Gianfranco Fabi. Con queste note diciamo buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Giulio Ceppi. Buonasera. Prima di presentarvi Giulio Ceppi chiediamo perché questa musica è la musica per gli aeroporti di Brian Eno, Music for Airports. Ma è banale, essendo architetto l'idea di una musica pensata per un luogo, per quanto qualcuno ha detto che gli aeroporti siano dei non luoghi, mi sembra un paradosso meraviglioso. Ecco, Giulio Ceppi, docente di design al Politecnico di Milano, architetto, un designer associato all'architettura, e fondatore di Total Tool, una società di visioning, di design strategy, con sedi a Tokyo, Buenos Aires e anche a Milano? Sì. Anche a Milano. Allora, un docente del Politecnico di design, che cosa il design si insegna? Uno nasce o diventa designer? Beh, questa è un'antica querela. Qualcuno sostiene, come anche diceva il mio maestro Castiglioni, che il design è un modo di vita. Se tu sei designer, vivi e guardi soprattutto le cose in un certo modo. E quello che si può insegnare, io credo che è questo, cioè è la curiosità, il rispetto, l'attenzione, la voglia e anche la modestia, che è una parola che credo oggi va un po' rispolverata, di guardare le cose e pensare di saperle migliorare. Ecco, poi non credo che si nasca designer, in qualche modo ci si lavora tutti i giorni. Lo si deve imparare e quindi lo si può insegnare. Esatto. Ecco, ma qual è che cosa si insegna con il design? Si insegna, uno pensa a disegnare, disegnare bene, a vedere le cose, a capire anche i lati diversi delle cose, e oltre a questo si può insegnare il bello? Sì, secondo me sì. Allora, in Europa abbiamo due grandi scuole, due grandi tradizioni. Una è la scuola anglosassone nord europea, che viene dalle cosiddette art and craft, in cui si insegna attraverso un processo pratico, cioè il famoso learning by doing. Cioè, infatti nel nord Europa i giovani designer sono molto manuali, sono molto bravi nell'intervenire sui materiali, nel fare autoproduzione, nel muovere non solo la testa ma anche le dita. Poi c'è la nostra tradizione, che invece possiamo chiamare politecnica, se voglio autocitarmi, in cui si pensa che un metodo, anche se è una parola che non amo tantissimo, definiamola un approccio, cioè quindi che ci siano alcuni step, alcune attenzioni, alcuni comportamenti che se tu in qualche modo segui e sui quali ti sei allenato, come un bravo centometrista, ecco, cioè forse non nasci per correre i 100 metri, ma se fai stretching, se fai allenamento, probabilmente ottieni dei buoni risultati. Ecco, quindi in qualche modo ci sono delle pratiche che se tu acquisisci ti possono aiutare a fare un buon design, ti possono quindi aiutare. Quindi è un equilibrio tra la razionalità e la creatività, tra l'applicare dei modelli logici e pensare che si possa andare anche oltre, fare delle cose nuove rispetto a modificare l'esistente. Beh, assolutamente sì. Guardi, io cito sempre, perché amo la persona, ma ovviamente anche il pensiero, Italo Calvino, che diceva che la creatività è come la marmellata. Non si degusta e non si assaggia a cucchiaiate, perché sarebbe anche abbastanza stomachevole, cosa che invece oggi accade, ahimè, ma serve il pane e il burro, serve, certo, diciamo, il raziocinio, serve il controllo, perché avere idee è la cosa più facile del mondo. Io e lei adesso ci mettiamo qui e abbiamo 100 idee. E poi, so what, come direbbero gli inglesi, ecco, cioè poi devi trasformarle. Ecco, in questo senso gli italiani cosa hanno in più? Si dice che l'Italia può eccellere, eccelle in molti casi, proprio in questa disciplina. Cosa c'è? C'è nel DNA qualcosa? C'è nella tradizione? C'è nella cultura? C'è nella storia qualcosa di in più rispetto ad altri? Beh, indubbiamente sì. Io non voglio citare, ma visto che siamo in un edificio del maestro Piano, lui qualche settimana fa parlava appunto della fortuna di nascere nel bello, per tornare a quanto diceva lei prima. E quindi indubbiamente noi non ce ne rendiamo conto, ma in Italia siamo circondati da una storia carica di bellezza, cioè i nostri principi, quando gli altri pensavano a costruire eserciti, a conquistare l'Europa, si preoccupavano di avere il ritratto più bello, il palazzo più elegante, l'architetto più raffinato, il pittore più di tendenza, e abbiamo costruito su questo un patrimonio che in qualche modo abbiamo nel DNA e che ci permette oggi, per fortuna, di muoverci fuori dall'Italia, ma come quando Leonardo andava a Roma, si muoveva tra virgolette fuori dal suo patrimonio locale, o andava a Parigi, oggi va in India, va in Cina, ma per fortuna ti porti dietro anche questa storia che devi poi attualizzare, ecco, devi cercare di... Cosa c'è di particolare, lei ha parlato appunto dei palazzi, di design applicato all'architettura o di architettura applicata al design? Beh, c'è uno scambio molto forte, perché c'è anche qua un paradosso, cioè quelli che oggi sono i maestri del design... Citavo prima Castiglioni, ma potremmo parlare di Sozzas, potremmo parlare di Magistretti, persone che sono sulla storia del design e sono ancora oggi dei riferimenti, dei monumenti. Erano architetti per il 90% di formazione. Architetti che non facevano case, non facevano lampade, mobili, poltrone, tavoli, librerie. Facevano entrambe, qualcuno ha fatto solo esclusivamente design, quasi come Castiglioni, che non ha fatto se non allestimenti, tendenzialmente non ha fatto architettura, qualcuno faceva tutto, mentre poi anche la nostra cultura un po' ha teso a una specializzazione, però... Quello che ha vinto, come dice Andrea Branzi, che è un altro maestro che amo e che stimo tantissimo, è la forma mente del design, perché oggi, ahimè, le architetture sono diventate degli oggetti, cioè anche quello che sta succedendo a Milano sono tanti belli oggetti messi su una mensola, su un tavolo. No? Ma c'è anche quella disciplina che si chiama urbanistica, forse qualche volta... È una disciplina, quindi già la parola capisce, lei dice è una disciplina, non funzionerà mai purtroppo. Sono indisciplinati o distratti, molto spesso, ecco, guardando un po' alle città sembra che ogni tanto qualche architetto si sia distratto, abbia fatto delle cose... Si sono distratti in tanti, diciamo, non voglio difendere la categoria a priori perché è un ruolo di sicuro che non mi assumo, però diciamo c'è stata un'illusione più che una distrazione, cioè che su una carta si potesse controllare la complessità di una città. Siamo tutti figli delle Corbusier che con i suoi disegni e le sue prospettive fantastiche ci ha fatto sognare. Beh, forse forse perché certe realizzazioni nelle città italiane sono, non sono molto diciamo figlie di una logica e di un'estetica come quella di Le Corbusier. No, e poi Le Corbusier ha progettato e realizzato, cioè ha progettato tantissimo e realizzato a livello urbanistico pochissimo, ecco, che forse è una fortuna come nei casi tanti architetti. Pensi se Sant'Elia, che ha dei disegni che hanno illuminato la storia dell'architettura, avesse realizzato quelle cose. Adesso non vorrei venire fulminato qua in forma istantanea, però non è detto che sarebbe stato un capolavoro il risultato. Forse è meglio che sia rimasto un disegno visionario e fantastico. Ecco, perché per certe cose forse ecco, c'è troppa visione, c'è troppa volontà. Certe cose vanno fatte con delle visioni, con dei salti anche di qualità. Però la città dovrebbe essere anche normalità della vita. Forse gli architetti vogliono fare qualcosa che lasci il segno. Sì, più che visione c'è, come diceva lei, secondo me, autoreferenzialità. Cioè gli architetti si citano addosso, no? Si monumentalizzano nelle loro realizzazioni, nelle loro architetture. Quelli cattivi, quelli bravi no, e ce ne sono tanti bravi per fortuna, e che magari sono più invisibili, perché invece vedere questi oggetti, queste super ciliegione che vengono messe su delle torte, però spesso ormai già un po' rancide di panna, non funziona. Comunque, avviandoci alla conclusione della prima parte, il design italiano, l'architettura italiana ha ancora un vantaggio competitivo rispetto agli altri paesi, è qualcosa che può aiutarci anche ad uscire un po' da questa crisi? Ma io credo tantissimo, perché comunque non è solo il patrimonio, la fortuna della storia, ma il fatto di vivere in un paese pieno di contraddizioni, pieno di diversità, pieno di complessità, è un elemento di ricchezza e di fortuna, perché ti aiuta a capire che il mondo è strutturato, è complicato, che non puoi pensare ingenuamente che quello che funziona a casa tua oggi possa funzionare in India o negli Stati Uniti o in Cina. E noi siamo un piccolo continente in Italia, perché abbiamo questa storia che ancora c'è, no? E che è la nostra eterogeneità e della nostra fortuna. Quindi sono molto ottimista. Ecco, come i giovani possono guardare e possono affrontare questi problemi? È una domanda che vorrei fare a Giulio Ceppi, docente di design, ma ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico. Incontri. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, Bentornati al nostro incontro di questa sera con Giulio Cepi, docente di design al Politecnico di Milano. Abbiamo iniziato la prima parte con una musica per gli aeroporti. In questa seconda parte, Philip Glass, Einstein on the Beach. Siamo passati dagli aeroporti alla spiaggia. Giulio Cepi. Beh, innanzitutto trovo geniale il titolo, Einstein on the Beach, perché lo trovo già una visione in sé, già una storia, no? E poi io di Philip Glass amo la reiterazione, perché a differenza di tutti che invidiano la mia professione dicendo ma tu sei un creativo, sei libero, puoi fare quello che vuoi, la creatività è assolutamente il contrario, la creatività è un'ossessione, perché tu sei un creativo, continuamente vedi le cose nella funzione del tuo lavoro, per cui vedi un colore, te lo porti via, te lo memorizzi, ascolti un suono, è interessante un domani per fare un allestimento, cioè quindi vivi in una maniera un po', sì, maniacale. Ecco, il problema è che non diventi angosciante, ma diventi liberante, diventi una possibilità di espressione anche questa. Soprattutto angosciante per gli altri. Per gli altri, infatti. Ecco, abbiamo terminato la prima parte, io mi ponevo una domanda sui giovani, la docente del Politecnico ovviamente ha a che fare con i giovani che sono ricchi di speranze, soprattutto quando affrontano una possibilità di mestiere molto, molto creativo, appunto come quello del design. Come sono i giovani, come li trovi? I giovani di adesso rispetto a quelli di qualche anno fa? Io li trovo, diciamo, estremamente porosi, cioè persone che hanno veramente voglia e bisogno di essere nutrite e di entrare nel mondo del design, però in una forma nuova, perché i modelli che citavamo prima, che sono i giganti sui quali tutti ci appoggiamo e che conosciamo, non sono più oggi dei modelli di riferimento assoluti, cioè non possiamo diventare tutti Castiglioni o Munari o Zanuso, perché una volta c'erano 50 designer e 50 maestri o 40, oggi ci sono 5.000 designer e non possiamo pensare di avere 5.000 maestri, ma dobbiamo avere delle persone che si sanno integrare, anche perché il design si è diffuso, cioè il design è ovunque, qualsiasi certo. Cosa che abbiamo intorno a noi è disegnata, e quindi si occupino anche, ecco, non solo della creazione, così con l'idea di tirar fuori il coniglio dal cilindro, ma che si occupano del servizio, dell'interazione, di aspetti sociali, del pubblico, cioè il design non sono solo belli oggetti da avere a casa tua, ecco. Ecco, qualcosa di utile alla società, che possa portare a una scelta consapevole da parte di chi ha una domanda su questo fronte di oggetti, ma anche di case, anche di oggetti più grandi come quelli di un'architettura. L'utilità può andare a braccetto con la bellezza. Assolutamente sì, una volta si diceva che la forma seguiva la funzione, questa era una regola per avere anche delle cose che avessero un valore, però non è sempre così scontato l'incrocio tra questi tre valori. Credo che oggi, come dicevo prima, un giovane designer ha di fronte una palette molto aperta di opzioni. Ci sono dei temi importanti come la sostenibilità, come l'etica, che stanno crescendo, che stanno diventando anche per il Made in Italy dei sigilli veramente di forza, no? E di autonomia rispetto a chi ci può aggredire, perché il bello si può anche cercare di copiare, certo, cioè certo. Le forme si possono imitare, ma invece i processi, la tracciabilità, ecco, il design oggi sta entrando in questa fase in cui non si occupa solo di ciò che si vede, ma si occupa anche del come ciò che si vede è stato realizzato, del perché. Aiuta le imprese, che siano un artigiano, che siano una multinazionale, a raccontare come si fanno le cose, no? Se oggi lei va in via Monte Napoleone, tutte le boutique della moda hanno dentro un artigiano. Poi che sia vero o finto, ma a me sembrano un po' dei fotomodelli, ma per far vedere il come si fa, che sta tornando importantissimo. Beh, una riscoperta della manualità, forse anche questo è importante, una riscoperta anche del fattore umano nella produzione. Ma guardando un po' questo mercato globale, il mercato della globalizzazione in cui ormai ci si deve confrontare, è ancora il design un elemento che può essere l'elemento che fa la differenza, il valore aggiunto vincente in realtà ormai di massa anche come domanda, come pensiamo per esempio al mercato cinese, ha certamente delle nicchie di elite, però è sicuramente un mercato di massa. In questo senso l'Italia ha anche un ruolo da giocare in questa prospettiva? Io credo di sì, e che abbia un ruolo anche molto più importante di quello che noi immaginiamo oggi, dove pensiamo che il ruolo dell'Italia sia vendere dei belli oggetti. Noi dobbiamo vendere il nostro modo di pensare a belli oggetti, perché in Italia si può produrre, ma abbiamo tanti vincoli, tanti costi e quindi non si può pensare di essere competitivi con tutto il mondo. Se uno vuole andare a vendere in Cina dall'Italia, per quanto i milionari in Cina si moltiplichino di mese in mese, ma diventa complesso. Bisogna vendere quello che io scherzando chiamo il make by Italians, cioè il fatto che è il modo in cui si fanno le cose e si pensano che fa il design italiano, non è solo il risultato finale, non è una questione teorica, è una questione invece estremamente pratica. Cioè, le faccio un esempio: io ero in India 2 settimane fa e ho visitato lo showroom di uno dei più bravi, eleganti, belli, diremmo, produttori di cucine italiane, però esportava queste cucine in India senza cambiare il top della cucina, tutta bianca, perfetta, elegantissima, dove in India si cucina con le spezie, con il colore, è una cucina che costa decine di migliaia di euro, dopo una settimana non va, è da buttare via. Ecco, allora ci vuole un'intelligenza di capire che non si va in India con lo stesso atteggiamento in cui si vende una cucina in Italia, ma si deve, certo, dialogare. Il mercato è globale, però alla fine vince sempre l'ottica individuale, in fondo, che poi è basata anche sulle tradizioni, sul modo di pensare, sul modo di vedere, sulla società, sulla capacità anche di imporre certi modelli. Cioè ormai il consumo è anche uno status symbol per certe cose, e quindi comunque il bello, il design è qualcosa di vincente. Sotto questa prospettiva, che cosa manca all'Italia per completare il cerchio, per vincere un po' questa idea del declino che ci angoscia sicuramente? Questo che stavamo dicendo, cioè forse pensare al consumatore come un consum attore, o ancora meglio un consum autore, cioè che alla fine tu non vendi da qua un modello preconfezionato, ma che anche il cinese, anche l'indiano, anche il vietnamita devono dialogare con la tua idea di bello. Cioè noi non siamo dei colonizzatori, non lo siamo mai stati, forse 2000 anni fa, ma i romani seminavano il vino, portavano le terme, cioè avevano degli strumenti altamente relazionali, erano guerrieri ma erano anche capaci poi di portarti degli elementi di godibilità. Ecco, allora noi dobbiamo portare non solo il bello come proporzione geometrica di un oggetto, ma come godibilità, e quindi devi dialogare localmente. Ecco, in questa prospettiva lei gira spesso, diceva, appunto, è stato in India, va frequentemente in Cina, ha un ufficio a Buenos Aires, a Tokyo. Come vede, che realtà vede più dinamiche all'interno? Si parla molto della Cina, per esempio, ma anche al di fuori della Cina, quali sono le realtà più dinamiche su cui si può pensare, su cui magari un giovane può indirizzarsi per dire, ma vado in quel posto, in quello studio di architettura, magari a San Paolo del Brasile, piuttosto che a Osaka? È chiaro che oltre al classico BRICS, perché adesso si è aggiunto, bisogna mettere la S, non la insegna, certo. Che sono le realtà dove i numeri sono molto diversi da noi e dove c'è bisogno, ecco, forse anche di quella funzionalità, dove qui ormai noi cerchiamo altro oltre che la funzionalità, ecco, invece è più un'urgenza. Quelli sono i luoghi più classici, però io credo che anche in una città come Londra, in Europa, ecco, uno viva forse una dimensione di internazionalità che l'Italia ama in una maniera sua, perché noi siamo internazionali ma in una maniera strana, certo, perché siamo dei metabolizzatori, no? Mentre invece là c'è davvero il mondo da toccare, da vedere, perché è una grande capitale. Noi siamo, ripeto, capaci di assorbire e metabolizzare, ma siamo diversi dalle altre capitali europee. Ecco, quindi in questa prospettiva anche come concorrenti all'Italia, cioè in questa realtà parlava prima per esempio del design dei paesi nordici, che hanno lasciato il segno in maniera molto concreta. C'è ancora una forte concorrenza rispetto al design italiano? Beh, di più di una concorrenza. Noi siamo stati già, come nella nostra storia, invasi anche dai designer stranieri. Cioè ormai da una quindicina d'anni alcune aziende hanno incominciato questo, ma ormai in Italia lavorano tutti i grandi designer europei per le aziende italiane. Cioè se uno prende, non so se si possono fare dei nomi. Cartel o Cassina o Alessi, cioè i designer, metà di questi vengono dalla Francia, dall'Inghilterra, dal Belgio. Ecco, c'è una fascia, sia la Patrizia Urchiola latina, sud europea, ma anche nord europea, molto forte. Quindi noi siamo anche internazionali per quello, cioè tutti vogliono venire a progettare e a disegnare in Italia. Quindi anche questo possiamo vederlo come un punto di forza, come una contaminazione positiva. È un punto di forza, ma è anche un elemento di competizione, perché fare il giovane designer italiano è vuol dire trovarsi già in casa un parterre parecchio affollato, è impegnativo, quindi è stimolante, diciamo che così. Cosa consiglierebbe a un giovane che vuole, che sta facendo il liceo, che magari tra qualche anno andrà all'università e vuole specializzarsi nel design, in architettura, in design al Politecnico di Milano? Ma secondo me, guarda, c'è una parola che magari sembra anche un po' desueta, che è passione, cioè capire che questa professione è legata, come dicevo prima, in termini un po' ossessivi e morbosi, ma in verità ha una dimensione di passione, cioè ti deve piacere molto, e in questo in Italia tendenzialmente siamo bravi, perché siamo capaci di lavorare come gli imprenditori illuminati, mossi dalla passione. Se no, vai a lavorare in banca, alle 5 certo, finito, torni a casa, ma qui non smetti mai, ma questo è il bello, no? Diventi un po' posseduto, quindi... E lei personalmente a quale progetto è più legato, del suo passato recente o anche lontano? Quale elemento ha rappresentato un po', ha messo un po' più della sua personalità, della sua passione? Ma è difficile per me dire questo, guardi. Posso rispondere in due modi un po' svicolando, cioè uno dicendo che amo Bruce Lee perché diceva il mio stile è non avere stili, quindi non mi piace pensare di essere rappresentato da una cosa, ma essere sempre in grado, come dire, che la prossima sia quella che mi rappresenterà certo, di più, perché io vivo di questa proiezione, quindi faccio tante cose diverse, anche se nel momento in cui ho finito avrei già voluto farla forse diversamente, ma questo è normale, fa parte, ecco, di quell'ossessione, di quella passione, per cui puoi sempre migliorare e fare le cose in una maniera leggermente diversa, no? Anche se poi vanno chiuse. Si può sempre fare meglio, questo. Si e può forse sempre fare meglio. Avrei potuto dire anche tante altre cose in questo nostro programma. Accontentiamoci di quello che abbiamo detto, abbiamo comunque messo tanta carne al fuoco. Io ringrazio Giulio Cepi, docente di design al Politecnico di Milano, fondatore di Total Tool, che ci ha accompagnato appunto in questo viaggio nel design italiano, anche nella competizione italiana sul fronte internazionale. Ringrazio anche Valeria Bernardi in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.